cosa. Ma è così, no, si fanno le leggi come vogliono loro, tentate e rovinano sempre, sempre. Cioè, io dico, cosa cavolo, andiamo ancora noi a votare, noi italiani, ma mandiamocele a fanculo, ma che non ci farà manco più uno. Cioè, come si fa ad andare avanti? Non si sente altro che gente che non lavora, c'è gente che non ce la fa arrivare alla fine del mese. Stiamo scherzando, ma dove stiamo arrivando? Lo so, troppo è così. Intervistati l'altro giorno, quello che prendeva di me non mi pare che erano 20.000 euro. Allora, 20.000 raglie le variane. Capito, si vuole bidare con uno stipendio una macchina così sciolte. No, a lui certe cose gliele passano anche, che non è che andano a compararsi, no? Ma per dire, no? Chi una bella riesce, con 20.000 euro riesce anche una bella macchina. Ma quelli manco ci vanno a comprare, già ve li compariamo noi. I cisori di là che ci vanno a fare. Ma, carità. Stanno scendendo la giù che soldi su. C'è troppa disoccupazione, cioè. No, non esiste. Ma stiamo scherzando. Le fabbriche li stanno mandando a puntare con questi cazzo sindacalisti che vanno a rompere le palle. Fanno solo più che danno che altro. E quindi le ditte si chiudono per colpa di questi ciarlatani. Come ci deve fare? Ma guarda, oggi ho detto un tassista che lavoro è diminuito al 35%. Giordina, cosa facciamo al tassista? Ma prima c'era anche la cosa, la sigla, produttore, le cose, e dice che chiamavano, capito, ogni tanto i pezzi grossi per portarli qua, portarli là. Insomma, non si può più andare avanti, no? Capito, quindi adesso già la sera, bisogna tutto. Allucinato. Io non riesco più a cavare i bini, mi sembra che si grossi. Chiaro. Sempre più andando, è sempre più peggiorando. Non si può più, no? Poi se fai come ti fate Berlusconi, ti venga a fare la tassa da una parte e ti dà buona nell'altra. Visto, già. Cosa, ci siamo sovramodulati? Negativo. No. Aspetta, se fai come fa Berlusconi, che ti togli la tassa da una parte e te la mette dall'altra. Sono tutti dei farabutti, cioè dal primo fino all'ultimo. Non ve lo vedono, l'altro hanno mangiato da una parte, io mi guarda, sto osservando, gli altri hanno mangiato da una parte, loro hanno mangiato dall'altra, a chi devi credere? Non bisogna credere a nessuno, basta, è finita per tutti, io non credo più in nessuno. Ma so, questo di la fiducia. Sulla fiducia, non mi interessa più di certo Gesù, io so solo una cosa, Gesù è sempre lo stesso, cioè non ha mai cambiato nulla, forse è pur peggiorato, ma migliorato non ha migliorato nulla, è solo quello. Paga. Tanto io ti auguro buonanotte, non ne vado tutta nada, ce l'ho stanco. Ciao, buonanotte, ci sentiamo, salutami. La famiglia e anche tua madre degli auguri di buona guarigione. Ciao, buonanotte. Ciao Anto.